tutti i sentimenti miei, li hai ripiegati e messi via, ed ora, cara amica mia, l'inverno non finisce mai. Perché, perché, perché vorrei, vorrei, vorrei che il tempo ritornasse indietro al primo bacio di nascosto. I giorni dell'amore vanno, ma niente li cancellerà. Perché, perché quella certa innocenza se ti sfugge non la trovi mai più. Ma tu sei sempre una donna bambina, ogni ingiallite ricoprono i viali d'autunno come ricordi d'amore che mi hai lasciato tu. Perché, perché, perché ormai tu vai, tu vai. Ma quanti anni ha un giorno, se il tempo lo scandisce il cuore? E com'è lunga questa notte, l'inverno non finisce mai. Ricordi d'amore che mi hai lasciato tu.